Letture di Radio 24. Nelle scorse settimane l'Unione Europea ha promosso una guida al consumo per evitare gli sprechi e per imparare a riciclare e recuperare. Il tempo delle feste e degli infiniti cenoni di Natale sta arrivando, anche il periodo degli avanzi e degli sprechi alimentari. Ogni anno l'Europa produce 3 miliardi di tonnellate di rifiuti nel nostro continente, 16 tonnellate circa pro capite. Eppure, con una corretta applicazione delle normative dell'Unione Europea in materia, si creerebbero 400.000 posti di lavoro entro il 2020 e un risparmio di 72 miliardi annui. Solo nell'arco del 2010, secondo gli ultimi dati di Eurostat, si contano 2.506 milioni di tonnellate di rifiuti generati da attività economiche e dai nuclei familiari. Tra i più spreconi, le famiglie inglesi che gettano circa il 25% del cibo acquistato, mentre secondo un'analisi dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, i paesi che hanno riciclato la più grande quantità di rifiuti urbani sono l'Austria, la Germania e il Belgio. Meno di un quarto degli alimenti che finiscono nella spazzatura nella sola Europa potrebbero sfamare 805 milioni di persone nel mondo. Nelle scorse settimane l'Unione Europea ha promosso una guida al consumo nell'ambito della campagna di Generation Awake della Commissione Europea per imparare a ridurre, riutilizzare e riciclare. Ogni volta che si svuota una bottiglia di una bevanda nel lavandino, ad essere sprecato non è solo il liquido contenuto, ma tutto il processo che ha portato a produrlo, l'acqua e l'energia utilizzati per far crescere i raccolti, trattare le bevande, eccetera. Per ridurre lo spreco di bevande, si consiglia di preparare le bevande nella quantità che si presume di consumare, soprattutto riguardo al tè e il caffè che richiedono l'utilizzo di molte risorse, comprare bevande concentrate che durano di più rispetto agli altri prodotti, utilizzare bevande non più fresche come il vino nella preparazione dei cibi per esaltare il sapore degli alimenti. Per i rifiuti di plastica si parla di 25,1 milioni di tonnellate aumentati del 2,4% rispetto ai livelli del 2010, ma nel 2011 il tasso di recupero di questi rifiuti ha raggiunto il 60% e sembrerebbe in crescita. Sarebbe più ecosostenibile bere l'acqua del rubinetto o filtrarla con una caraffa o acquistare sempre bottiglie grandi per ridurne la quantità rispetto a tante piccole, suggerisce la guida. Ogni anno in tutto il mondo vengono utilizzate 320 tonnellate di oro e altre 7.500 tonnellate di argento per fabbricare computer, telefoni cellulari, tablet e altre apparecchiature elettroniche. 41 vecchi cellulari basterebbero all'estrazione di un grammo d'oro. Tra i suggerimenti per riciclare al meglio i prodotti elettronici si consiglia di attivarsi per portarli ai punti di raccolta predisposti. Un quinto della popolazione mondiale vive in aree in cui l'acqua scarseggia, ma la quantità d'acqua presente sul pianeta è abbastanza per supportare la corrente popolazione mondiale di circa 7 miliardi di persone. Il problema è che non è ben distribuita e molto spesso sprecata. Il getto d'acqua di una doccia molto potente porta a consumare più acqua rispetto a una vasca piena. Una soluzione ecosostenibile è rappresentata dall'utilizzo di una doccia con un getto meno potente, chiudere il rubinetto mentre ci si mette shampoo e bagnoschiuma, ridurre il tempo per la doccia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Irene Giuntella, Sprechi e rifiuti in Europa. L'Unione Europea propone una guida al consumo. Pubblicato il 10 dicembre sull'edizione online del magazine East. Letture di Radio 24. La proposta di legge sulla depenalizzazione dei reati minori dovrebbe avere l'obiettivo di sgravare il lavoro dei magistrati e ridurre l'affollamento delle carceri. Ma questa legge dimostra, commenta Luca Ricolfi su Panorama, che il nostro governo non riesce a liberarsi delle peggiori idee del 68. Quelle secondo cui alcuni reati sarebbero giustificati in quanto commessi per una presunta giusta causa. Ma l'unica vera rivoluzione sarebbe quella di difendere il dovere di avere dei doveri. Non Non so che cosa ne sarà alla fine delle proposte del governo in materia di depenalizzazione e non punibilità di alcuni reati. Nelle ultime settimane se ne è parlato molto, ma sarebbe stato meglio parlarne in aprile, quando con l'approvazione della legge 67 il governo ottenne dal Parlamento la delega a fare tutto ciò che ora sta facendo. E dire che, contrariamente a quel che è accaduto con il Jobs Act, quella legge delega era chiarissima e molto dettagliata. Prevedeva minuziosamente e analiticamente un corposissimo insieme di misure per trasformare reati in illeciti amministrativi e soprattutto per alleggerire le modalità di espiazione della pena, prevedendo sanzioni pecuniarie al posto di sanzioni penali, arresti domiciliari al posto del carcere, generosissime agevolazioni nel pagamento delle sanzioni pecuniarie, dimezzamento degli importi e rateizzazioni. L'esatto contrario di quel che fa il fisco con il contribuente. A quel che se ne sa, l'ambito di applicazione è vastissimo. Vi possono rientrare furto, truffa, violenza privata, vari reati connessi alla droga e all'immigrazione clandestina, nonché l'occupazione di case. Io non sono un giurista e quindi mi guarderò bene dall'esprimere valutazioni sul funzionamento effettivo di queste norme, se mai verranno approvate in via definitiva. Può darsi che, come auspica il governo, il loro effetto sia soprattutto di cancellare processi, sgravare i magistrati, ridurre l'affollamento delle carceri. E può darsi, invece, che, come temono in molti, il loro effetto sia di moltiplicare le condotte criminali e aumentare ancora di più il potere discrezionale dei giudici, visto che in vari passaggi della legge delega si raccomanda di tenere conto delle condizioni economiche e della personalità di chi commette un illecito. Quel che però mi sembra chiarissimo è il messaggio che con queste norme si invia ai cittadini. Anziché preoccuparsi di rendere le carceri un luogo civile anziché una vergogna nazionale, anziché occuparsi di trasformare finalmente la pena detentiva in un mezzo di rieducazione e reinserimento, come prevede la Costituzione, i nostri governanti preferiscono battere la strada più comoda, quella di rendere effettivamente punibili solo alcuni reati stabiliti dall'esecutivo, chiudendo un occhio su buona parte degli altri. Si potrebbe pensare, benevolmente, che questo orientamento del governo sia stata una svista di primavera, o che sia esclusivamente finalizzato a dare un sollievo alla macchina soffocata da milioni di processi arretrati, ma purtroppo non è così. Negli stessi giorni in cui il Consiglio dei Ministri approvava il primo decreto delegato sulla depenalizzazione, il sottosegretario all'istruzione, Davide Faraone, tesseva sul quotidiano La Stampa un elogio delle occupazioni delle scuole, suscitando la comprensibile reazione di molti presidi e insegnanti increduli di fronte a un membro del governo che esalta un illecito. La proposta del mondo della scuola è anche confluita in una petizione promossa da Giorgio Israel, in cui si chiedono le dimissioni di Faraone. Naturalmente Faraone, che ha ribadito le sue posizioni pochi giorni fa, resterà tranquillamente al suo posto. La sua, infatti, è un'uscita perfettamente in linea con la legge 67, ossia con l'orientamento politico del governo, il quale, a quanto pare, non riesce a liberarsi delle peggiori e peggio assimilate idee del 68. Fa una certa impressione vedere gli alfieri del nuovo che non perdono occasione per ribadire che finalmente si cambia verso, riproporre una visione della legalità che è stata uno dei tratti distintivi della cultura di sinistra del Novecento. Il cardine di quella visione è l'indulgenza verso i reati che hanno un carattere sociale, o in quanto commessi in nome di una presunta giusta causa, o in quanto commessi da soggetti deboli. Secondo questa visione, occupare una scuola, occupare case, bloccare una grande opera, impedire a un nemico del popolo di prendere la parola, rubare per procurarsi i mezzi di sostentamento, circolare in un paese straniero senza documenti, spacciare droga per sbarcare il lunario, sono comportamenti giustificati perché dettati dalla necessità, ideale o materiale che sia. Curioso destino, quello della sinistra. Oggi, l'unica vera rivoluzione in materia di legalità e di giustizia sarebbe difendere il dovere di avere doveri, dopo anni e anni in cui lo strabismo giudiziario dei sedicenti progressisti ha stigmatizzato le illegalità maggiori e chiuso un occhio su quelle ritenute minori. Ed è un paradosso che quel medesimo dovere di avere dei doveri dia il titolo all'ultimo libro di un vecchio comunista come Luciano Violante, mentre le più vecchie e dannose idee della sinistra sulla legalità vengono fatte proprie dai governi eredi del PCI. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Luca Ricolfi, Il governo dei diritti senza doveri, da Panorama del 17 dicembre. New York è tante cose insieme: arte, affari, moda, spettacolo, turismo, shopping, Wall Street e Broadway, le torri dei ricchissimi e i ghetti dei diseredati. Mille aspetti da raccontare, esaltare, criticare. Ma ci sono anche storie di cui si parla poco. La scintillante Manhattan, per esempio, è anche una Spoon River disseminata di luoghi della memoria di homeless che si sono fatti amare e che ci hanno lasciato. Nel West Side qualche giorno fa si è spento Eric Glenn Smith, un senza tetto che ha vissuto per 25 anni nelle stazioni del metrò e sui gradini delle chiese. Una presenza familiare, soprattutto per i clienti del gourmet market Zabar's. Apriva la porta a chi usciva con le mani ingombre di pacchi del cibo, chiedeva qualche centesimo ed erano tanti ad aiutarlo. Ogni tanto qualcuno, infastidito, protestava. Allora scattava l'arresto, con immediato rilascio. Ma proprio Vanessa Wunderlich, la poliziotta del quartiere che lo portava in commissariato, era diventata la sua migliore amica. Affascinata dai racconti di vita di un professore di matematica con moglie e due figli, che si era progressivamente estraniato dal mondo. Quando un ictus se l'è portato via, Vanessa ha deciso che se non aveva potuto fare nulla per lui quando era in vita, Eric accettava piccole somme di denaro, ma non l'aiuto di chi voleva dargli un tetto, avrebbe cercato di strapparlo al suo destino di homeless, almeno da morto. Niente fossa comune a Dart Island per lui. Con i soldi raccolti tra la gente che lo ha conosciuto, l'agente di polizia ha acquistato una tomba in un cimitero nel New Jersey e ha organizzato un vero servizio funebre con la bara di legno pregiato, i fiori, musica sacra e l'orazione davanti a poche persone che hanno rubato un'ora alle loro vite indaffarate per ricordare quell'ombra cortese che era divenuta parte del loro paesaggio umano. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Massimo Gaggi, Un clochard tanto amato, dal Magazine 7 del 5 dicembre. Nel giugno del 1949, alla stazione di Varenna, il capotreno trova una ragazza senza biglietto e senza soldi per pagare la multa. Si chiama Marta Bisovic, non parla bene l'italiano, dice di venire da Milano e di essere diretta a Bellano. Inizia così il nuovo romanzo di Andrea Vitali, rielaborazione del racconto L'aria del lago, originariamente pubblicato nel 2001. La ragazza finirà per essere accolta a casa del vice sindaco di Bellano, Amedeo Torelli, che in realtà gestiva un traffico di ragazze da avviare alla prostituzione, delle quali faceva parte anche la Bisovic. Torelli, che alla vigilia delle elezioni comunali aspira alla poltrona di sindaco, approfitta dell'incidente per far credere alla cittadinanza di aver accolto in casa una profuga istriana, da affidare a sua moglie Mercede, ex maestra, che cercherà di istruirla in modo da farle ottenere una licenza elementare e avviarla ad un onesto lavoro. Per Torelli, che da tempo si è invaghito della procace ragazza, questa potrebbe essere l'occasione giusta per approfittare di lei. Ma la situazione si complica quando la moglie mostra di voler prendere le redini del destino della giovane straniera. Da quel maledetto giorno di giugno in cui era comparsa in municipio, il Torelli camminava sul filo del rasoio. La ragazza sapeva di lui abbastanza per rovinarlo, in casa e fuori. Avesse parlato, sarebbe stata la sua morte civile. Approfittando dei rari momenti in cui aveva potuto restare solo con lei, quando la Mercede andava al cesso ed essendo per fortuna stitica soggiornandovi per dei bei quarti d'ora, il vice sindaco le aveva sempre ribadito di mantenere il segreto, fidarsi di lui, non temere per il suo futuro, che non sarebbe stato sempre quello di fare la marionetta di sua moglie. «Io mi fido, ma attento», aveva sempre risposto Marta, il tono da far venire i brividi. Il Torelli, per tutta risposta, deglutiva l'imbarazzo. Il rumore dello sciacquone poi interrompeva il dialogo fino alla successiva seduta e il vice sindaco ricominciava a elaborare piani per sistemare la ragazza da qualche parte. Le opportunità non mancavano. Commessa, operaia presso il cotonificio, bidella, anche infermiera generica, perché no? Sbottò una sera mentre ragionava ad alta voce. Da pochi giorni era cominciato l'ultimo anno delle elementari. Marta si avviava verso una splendida chiusura del ciclo di studi e la conquista con lode della licenza. Mercede, svegliata nel letto accanto a lui, gli chiese di cosa stesse parlando. «Ma del futuro della ragazza», chiarì il Torelli. Le molle del letto cigolarono. La luce dell'abajur, scheletro schermato di viola e lampadinetta del piffero, anziché illuminare, sembrò rendere ancora più buia la camera da letto. L'ombra della Mercede, che s'era tirata su a sedere, si proiettò in parete. Sembrava il profilo del resegone. «Quale ragazza?» chiese. Il tono inquietante della donna spinse anche il Torelli a mettersi seduto. «Ma sta giù», ordinò la Mercede, «e che ascoltasse». Perché se con il termine ragazza intendeva la Marta che lei aveva accolto in casa sua, istruito, educato e accudito come una figlia, sì, proprio tale e quale ha una figlia. Se la sua sensibilità non andava oltre quella che poteva avere una delle tante damigiane che spacciava in giro per il lago, se adesso, dopo aver fatto la figura del benefattore davanti all'intero paese, pensava di poter agire senza tenere in conto l'impegno, la fatica, l'amore che lei aveva profuso nel corso di quei mesi, ebbene, si sbagliava grossolanamente. «Io l'ho formata», sentenziò la donna. «Io deciderò del suo destino, che non sarebbe certo stato quello di vederla con le mani unte a spacciare Bologna o Pancetta a muratori e garzoni in una qualunque macelleria o a farsi palpare il culo da viaggiatori di commercio mentre serviva a tavola in qualche olente trattoria. Ma che...» tentò di interloquire il Torelli. «Zitto!» L'ombra del profilo della Mercede sembrava una frana in movimento. «Ma che cazzo voleva farne? Tenersela in casa a vita natural durante?» fu il pensiero del vice sindaco. «Bada a te, Torelli», rispose la Mercede. «Giù le mani dalla ragazza», lo avvisò, facendolo sudare per le implicazioni di quelle parole. Il resegone sparì dalla parete e tornò sotto le lenzuola. Il Torelli, placido dinosauro, si girò sul fianco. «Buonanotte», disse. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Andrea Vitali, Biglietto signorina, Garzanti, 400 pagine, €16,40. Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas, je n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, scénarant. Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Pas la moindre affectation, je... Encore m'en fait grief, m'en fait grief.